Allora si affacciò alla finestra una bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cielo, gli occhi chiusi e le mani poggiate sul petto, la quale senza muovere punto le labbra gli disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo: in questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti. Aprimi almeno tu, gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. Sono morta anch'io. Morta? E allora cosa fai alla finestra? Aspetto che vengano a portarmi via.